tutta mostaccia. Stira sto braccio che hai fatto prova, che hai fatto prova. Stirala su, stirala su, stirala su, brutta mostaccia. Stira sto braccio che hai fatto prova, che hai fatto prova. Stira. La frittura, sta creatura senza la maglia che serve più, che serve più. Bella frittura, sta creatura senza la maglia che serve più, che serve più. Che serve più, che serve più. Brutta mostaccia, stira sto braccio che hai fatto prova, che hai fatto prova. Stirala su, stirala su, stirala su. Brutta mostaccia, stira sto braccio che hai fatto prova, che hai fatto prova.